L'Alzheimer inizia non nel cervello, come finora creduto, ma nel fegato. È lì che vengono fabbricate le caratteristiche placche amiloidi ed è quindi lì che devono colpire eventuali terapie precoci. Così spiega una ricerca dello Scripps Research Institute, Stati Uniti, diretta dal dottor Gregory Sutcliffe e pubblicata sul Journal of Neuroscience Research. Gli scienziati hanno condotto osservazioni su cavie animali, cercando di individuare i geni che danno inizio alle placche. L'analisi si è così focalizzata su tre geni distinti. Se la loro azione nel fegato era ridotta, i topi non manifestavano sintomi della malattia neanche nel cervello. Secondo i ricercatori, tali dati indicano come quantomeno una dose significativa di placche nasce nel fegato e raggiunge il cervello via circolazione sanguigna. Perciò è ragionevole pensare a trattamenti futuri contro il morbo che abbiano come primo obiettivo fermare l'Alzheimer a livello epatico, inibendo i geni in questione. E ne parliamo oggi col professor Franco Filipponi, presidente della Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti, ordinario di chirurgia generale all'Università di Pisa e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e trapianto di fegato. Buongiorno professore. Buongiorno. Direi che quanto espresso da questa scheda è quanto mai reale, nel senso ormai abbiamo la percezione chiara che delle globuline vengono sintetizzate dal fegato, possono essere anomale e possono quindi provocare delle placche. Ci sono appunto dei geni che regolano questa situazione di sintesi e di produzione, ma è anche evidente che dal fegato e quindi dalla sintesi che il fegato attua si ha poi una ripercussione a livello cerebrale, dove questo magma di immunoglobuline va a fissarsi in alcuni punti del cervello. In una prima battuta si hanno delle alterazioni neurologiche di tipo motorio e quindi una perdita progressiva della capacità, diciamo, di deambulare. Dopo, a distanza di 1 o 2 anni, si può arrivare evidentemente alla compromissione invece del sistema nervoso centrale e conseguentemente a quello che può essere definito un Alzheimer. Cosa insegna la ricerca e quali prospettive future apre, professore? Ma le prospettive, diciamo, già da tempo conosciamo questo dato che è addirittura verificato biologicamente su determinate popolazioni specifiche di pazienti trapiantati. Ma sicuramente può aprire tutta una importante area di ricerca su quello che sono in primo luogo le connessioni fegato-cervello ed anche poi su quelle che possono essere invece le sedi in cui queste placche vanno a depositarsi e comprendere come è possibile riuscire a inibire la produzione delle placche, ovviamente attraverso l'utilizzo e la valutazione di questi geni che ne regolano poi l'effettuazione. Ci sono fegati, mi lasci usare il termine, più predisposti a fare questa, per a trovarsi in questa condizione, quindi ad avere queste immunoglobuline e questi tre geni che li controllano, che si comportano in modo difettoso. Difettoso, giustamente. Sono dei fegati particolari che hanno all'interno la possibilità e la proprietà di dare adito a un amiloide, appunto, che, ripeto, è essenzialmente circoscritta in determinate popolazioni e che ci danno il segno di come è una specie di laboratorio, diciamo, sì. Ci danno il segno di come sarà verosimilmente possibile cercare di attuare delle terapie di prevenzione sulla popolazione più ampia che magari non ha la stessa malattia che appunto l'amiloidosi, ma che in piccolo riproducono queste placche nel fegato e conseguentemente possono danneggiare il cervello anche su soggetti che apparentemente non hanno una cosiddetta amiloidosi. Sicuramente una via di ricerca estremamente importante e proprio per la ripercussione che avrebbe sulla malattia dell'Alzheimer, che sappiamo essere sempre più ingravescente. Professor Filipponi, grazie per essere stato con noi e per aver commentato questa ricerca, per averci, come si dice sempre, fatto capire di più. Buonissima giornata a lei, professore. Grazie a voi.